Il terzo anello ad alta voce. Memorie di Adriano, di Margheriti Ursenar. Il mio avo Marullino credeva negli astri. Aveva molte nozioni, per metà scientifiche, per metà contadine. Quel misto di pregiudizi gretti e di antica saggezza che furono la caratteristica del vecchio Catone. Ma Catone fu per tutta la vita l'uomo del senato romano e della guerra contro Cartagine, l'autentico rappresentante della dura Roma repubblicana. La rigidezza quasi impenetrabile di Marullino traeva da più lontano, da epoche più remote. Egli era l'uomo della tribù, l'incarnazione d'un mondo ancestrale, quasi pauroso, di cui più tardi ebbi a ritrovare le vestigia presso i nostri necromanti etruschi. Aveva ricostruito dal giorno della nascita il mio destino. Una notte venne da me, mi scosse per destarmi e mi preannunciò l'impero del mondo con quella stessa brusca laconicità con la quale avrebbe predetto un buon raccolto ai contadini della fattoria. Poi, colto da diffidenza, andò a prendere un fuscello incandescente dal focherello di sarmenti che alimentava per riscaldarci nelle ore fredde, me lo avvicinò alla mano e lesse in quel rozzo palmo di undicenne non so quale conferma alle linee tracciate nel cielo. Il mondo per lui era un blocco unico. Una mano confermava gli astri. Tale annuncio mi stupì assai meno di quel che si potrebbe supporre. Qualsiasi bambino s'aspetta di tutto. Mio padre, Elio Afro Adriano, era un uomo sopraffatto dalla virtù. La sua vita era trascorsa in amministrazioni senza gloria. In Senato la sua voce non aveva contato mai. Contrariamente a quel che avviene di solito, la carica di governatore d'Africa non l'aveva arricchito. Da noi, nel municipio spagnolo di Italica, si esauriva a comporre dissidi locali, immune da ambizioni, privo di gioie, come avviene a tante che a questa maniera finiscono per contare sempre meno, s'era ridotto a dedicare un'attenzione maniaca alle piccole cose alle quali limitava i suoi interessi. Avevo 12 anni quando quest'uomo logorato ci lasciò e mia madre si chiuse in una vedovanza austera per il resto dei suoi giorni. Dal giorno in cui partì per Roma, chiamatovi dal mio tutore, non l'ho più rivista. Serbo intatto il ricordo, rinverdito dal busto di cera sulla parete degli avi, del suo viso allungato di spagnola, soffuso d'una dolcezza malinconica. Aveva, delle fanciulle di Cadice, i piccoli piedi calzati da sandali stretti, e quella giovane matrona irreprensibile aveva il molle ancheggiare delle danzatrici della regione. Ho riflettuto spesso sull'errore che commettiamo nel supporre che un uomo, una famiglia, necessariamente partecipino alle idee o agli avvenimenti del secolo nel quale si trovano a vivere. L'eco degli intrighi di Roma giungeva a malapena ai miei genitori in quell'angolo di Spagna, benché all'epoca della rivolta contro Nerone, per una notte mio nonno abbia offerto ospitalità a Galba. Mia sorella Paolina era seria, taciturna, quasi arcigna, ed era andata sposa ancor giovane a un uomo vecchio. La loro rettitudine era rigorosa, ma si trattavano duramente gli schiavi. Non si avevano curiosità di nessun genere, si badava ad avere su qualsiasi cosa l'opinione che si conviene a un cittadino romano. Tutte virtù, se sono effettivamente tali, che sarebbe toccato a me dissipare. Thank you. La convenzione ufficiale vuole che un imperatore romano sia nato a Roma, ma io sono nato a Italica, a quel paese arido e tuttavia fertile, ho sovrapposto in seguito tante regioni del mondo. La convenzione ha del buono, dimostra che le decisioni dello spirito e della volontà hanno la meglio sulle circostanze. Il vero luogo natio è quello dove per la prima volta si è posato uno sguardo consapevole su se stessi. La mia prima patria sono stati i libri, in minor misura le scuole. I metodi dei grammatici e dei retori forse sono meno assurdi di quel che mi apparissero allorché vi ero sottoposto. La grammatica, con quella sua mescolanza di regole logiche e di usi arbitrari, fa pregustare ai giovani quel che gli offriranno in seguito le dottrine riguardanti la condotta umana, il diritto o la morale, tutti i sistemi nei quali l'uomo ha codificato la sua esperienza istintiva. Quanto alle esercitazioni di retorica, nelle quali impersonavamo volta a volta Serse e Temistocle, Ottaviano e Marcantonio, mi inebriarono. Mi sentii proteo, imparai a penetrare volta a volta nel pensiero di ciascuno, a comprendere che ciascuno si determina, vive e muore secondo le proprie leggi. La lettura dei poeti produsse in me effetti ancor più conturbanti. Non sono del tutto certo che conoscere l'amore sia più inebriante che scoprire la poesia. Quest'ultima mi trasformò. L'iniziazione alla morte non mi inoltrerà in un mondo diverso più di quanto abbia fatto un crepuscolo virgiliano. Fino alla fine dei miei giorni sarò riconoscente a Scauro per avermi costretto a studiare il greco per tempo. Ero ancora bambino quando tentai per la prima volta di tracciare con lo stilo quei caratteri d'un alfabeto a me ignoto. Cominciava per me la grande migrazione, i lunghi viaggi e il senso d'una scelta deliberata e involontaria quanto quella dell'amore. Ho amato quella lingua per la sua flessibilità di corpo allenato, la ricchezza del vocabolario nel quale a ogni parola si afferma il contatto diretto e vario della realtà. L'ho amata perché quasi tutto quel che gli uomini han detto di meglio è stato detto in greco. Vi sono altre lingue, lo so bene, alcune sono pietrificate, altre dovranno nascere ancora. Alcuni sacerdoti egiziani mi hanno mostrato i loro antichi simboli, segni più che parole, antichissimi conati di classificazione del mondo e delle cose, idioma sepolcrale d'una razza morta. Durante la guerra ebraica il rabbino Giosuè mi ha decifrato lettera per lettera alcuni testi di quella lingua di fanatici, tanto invasati del loro Dio da trascurare l'umano. La bellezza d'un'iscrizione latina, votiva o funeraria, non ha pari. Quelle poche parole incise sulla pietra riassumono con maestà impersonale tutto quel che il mondo ha bisogno di sapere sul conto nostro. L'impero l'ho governato in latino. In latino sarà inciso il mio epitaffio, sulle mura del mio mausoleo in riva al Tevere. Ma in greco ho pensato, in greco ho vissuto. Avevo 16 anni. Tornavo da un periodo di addestramento nella settima legione. Acilio Attiano, il mio tutore, ritenne opportuno farmi alternare con un periodo di studio quei mesi di vita rude e di aspre cacce. Ebbe il buon senso di lasciarsi persuadere da Scauro a mandarmi ad Atene presso il sofista Iseo, un uomo brillante, dotato soprattutto di una rara capacità di improvvisazione. Atene mi affascinò immediatamente. Lo studentello un po' goffo che io ero, l'adolescente dall'animo schivo, si trovò ad assaporare per la prima volta quell'aria viva, quelle conversazioni rapide, quell'andare a zonzo nelle lunghe sere rosate, quella disinvoltura senza pari nella discussione e nella voluttà. Thank you. Ad onta delle leggende che vanno in giro sul mio conto, ho amato assai poco la giovinezza e la mia meno di qualsiasi altra. Considerata in se stessa, questa giovinezza tanto vantata il più delle volte mi appare come un'epoca ancora rozza della nostra esistenza, un'età opaca e informe, mal sicura e fuggevole. Va da sé che conosco un certo numero di eccezioni incantevoli a questa regola, due o tre perfino ammirevoli, delle quali tu, Marco, sei certo la più pura. Per quel che mi riguarda, a 20 anni ero pressappoco come sono ora, ma lo ero senza consistenza. Non tutto era cattivo in me, ma tutto poteva esserlo. Il buono o il meglio respingevano il peggio. Non posso ripensare senza rossore alla mia ignoranza del mondo, che pure credevo di conoscere, alla mia impazienza, a una sorta di frivola ambizione, di avidità grossolana. Dovrò confessarlo, nel bel mezzo dei miei studi ad Atene, dove tutti i piaceri trovavano posto con misura, rimpiangevo non già Roma in se stessa, ma l'atmosfera del luogo ove si fanno e si disfanno continuamente le vicende del mondo, il cigolio stesso degli organi della macchina del potere. Il regno di Domiziano volgeva alla fine. Mio cugino Traiano, che s'era coperto di gloria sulle frontiere del Reno, si atteggiava a grand'uomo del popolo. La tribù spagnola si stabiliva a Roma. Non tutto era bello in quell'avvento di una classe media laboriosa che s'affermava a sostegno di un cambiamento di regime imminente. L'onestà politica vinceva la partita, ma si serviva di stratagemmi alquanto loschi. Il Senato, affidando poco a poco tutte le cariche nelle mani di uomini suoi, portava a termine l'esautoramento di Domiziano, che ormai era agli ultimi aneliti. Gli uomini nuovi, ai quali mi legavano vincoli di famiglia, forse non erano poi tanto diversi da quelli che si accingevano a soppiantare, erano più che altro meno insudiciati dal potere. I cugini e i nipoti di provincia s'aspettavano solo qualche carica secondaria, e si esigeva ancora che la occupassero con integrità. Ne toccò una anche a me, fui nominato giudice del tribunale a cui erano demandate le questioni ereditarie. Da quella posizione modesta assistetti alle ultime fasi del duello a morte tra Domiziano e Roma. In città l'imperatore aveva perduto autorità. Non si reggeva se non a colpi di esecuzioni, e queste ne affrettavano la fine. L'esercito al completo tramava la sua morte. Non compresi granché di quel duello, ancor più mortale di quelli dell'arena. Mi contentavo di assistervi col disprezzo arrogante d'un alunno dei filosofi verso il tiranno agli estremi e, obbediente ai buoni consigli di Attiano, feci il mio mestiere senza occuparmi troppo di politica. Non ero molto amato, ma del resto, che motivo c'era perché mi amassero? Alcuni tratti del mio carattere, per esempio l'amore per l'arte, passavano inosservati in uno studente di Atene e sarebbero stati più o meno generalmente ammessi nell'imperatore. Urtavano però in un funzionario, in un magistrato ai primi passi della carriera. Il mio ellenismo faceva sorridere, tanto più che, secondo i casi, me ne compiacevo e lo dissimulavo goffamente. In Senato mi chiamavano lo studente greco. Cominciava a crearsi la mia leggenda, quel riflesso luccicante, bizzarro, fatto per metà dalle nostre azioni, per metà di quel che di esse pensa il volgo. Non che io disprezzi gli uomini. Se lo facessi non avrei alcun diritto né alcuna ragione di adoperarmi a governarli. So bene che sono vanitosi, ignoranti, avidi, irrequieti, capaci quasi di tutto pur di arrivare, pur di farsi valere, anche solo ai propri occhi o anche soltanto per evitare di soffrire. Lo so bene. Sono fatto anch'io come loro, almeno in alcuni momenti, o avrei potuto esserlo. Sono troppo tenui le differenze che scorgo tra gli altri e me perché contino nel totale. Perciò faccio del mio meglio affinché il mio atteggiamento si discosti tanto dalla fredda albagia del filosofo quanto dall'arroganza del Cesare. Nella maggior parte degli uomini ho riscontrato scarsa fermezza nell'operare il bene, ma altrettanta nel compiere il male. La loro diffidenza, la loro indifferenza più o meno ostile, cedeva quasi troppo presto, quasi in modo abietto, e con eccessiva facilità si mutava in gratitudine, in rispetto, sentimenti del resto altrettanto effimeri. Persino il loro egoismo avrebbe potuto essere indirizzato a fini utili. Tuttora mi meraviglia che siano stati così pochi a odiarmi. Nemici accaniti ne avrò avuti due o tre e, come sempre avviene, in parte per colpa mia. Alcuni mi hanno amato e m'hanno dato molto più di quel che io non avessi diritto di esigere, neppure di sperare da loro, la loro morte, a volte la loro vita. E il Dio che portano in sé spesso si rivela al momento della morte. Quasi tutti ignorano del pari in che cosa consista la loro autentica libertà e il loro vero servaggio. Imprecano alle loro catene, a volte si direbbe che se ne vantino. D'altro canto trascorrono il tempo in trasgressioni vane, non sanno imporre a se stessi il giogo più lieve. Quanto a me, ho cercato la libertà più che la potenza, e quest'ultima soltanto perché in parte secondava la libertà. Quel che mi interessava non era una filosofia dell'uomo libero, mi hanno sempre tediato tutti quelli che vi si provano, ma bensì una tecnica. Volevo trovare la cerniera ove la nostra volontà s'articola al destino, ove la disciplina, anziché frenarla, asseconda la natura. Dato che in fin dei conti tutto consiste in un atto volitivo interiore, lento, insensibile, tale da implicare anche l'adesione del corpo, mi studiavo di raggiungere gradualmente questa condizione di libertà o di sottomissione quasi allo stato puro. Ma la conquista nella quale ho impegnato tutto me stesso, la più ardua, è stata quella della libertà di assentire. Io volevo lo stato in cui ero. Durante gli anni in cui dipesi dagli altri, la mia sottomissione perdeva il suo contenuto amaro e persino indegno, se mi adattavo a considerarla un esercizio utile. Ciò che avevo ero stato io a sceglierlo, costringendomi soltanto a possederlo totalmente e ad assaporarlo quanto più possibile. I lavori più aridi li eseguivo agevolmente, solo che mi sforzassi a prenderci gusto. Se un soggetto mi ripugnava, ne facevo argomento di studio. Avevo l'accortezza di ricavarne motivo di gioia. Di fronte a un caso imprevisto o disperato, un'imboscata, un fortunale, una volta prese tutte le misure concernenti gli altri, facevo del mio meglio per rallegrarmi del caso, per godere dell'imprevisto che mi si offriva, e l'imboscata o la tempesta si inserivano senza fatica nei miei progetti o nei miei sogni. Persino immerso nella sciagura più tremenda ho percepito l'istante in cui lo sfinimento le sottraeva un poco del suo orrore, in cui la facevo mia accettando di accettarla. Se mi capiterà mai di subire la tortura, e si incaricherà la malattia senza dubbio di impormela, non sono assolutamente certo di ottenere da me stesso a lungo l'impassibilità d'un trasea, ma avrò almeno la risorsa di rassegnarmi ai miei lamenti. E in questo modo, con un misto di riserva e di audacia, di sottomissione e di rivolta ben concertate, di esigenze estreme e di concessioni prudenti, ho finito per accettare me stesso. Thank you.